quasi no, da non seguire perché fosse già determinato, non è vero, anche per il fatto che i residenti, la popolazione, la società cambiano e cambiano anche a Bologna e in Emilia Romagna. La differenza è come si porta avanti una politica che sta radicata, sta sulla concretezza dei problemi, ma anche nei principi e nei valori di un centro-sinistra che deve essere capace di evolvere. Io credo che qui, con molta fatica e sicuramente con un lavoro che è ancora in itinere, che deve essere compiuto, noi questo lo portiamo avanti, e quindi anche la credibilità delle candidature di Michele De Pascale e ancora anche un radicamento di organizzazione del Partito Democratico, come stiamo facendo con la nostra segretaria Eli Schlein e anche qui a Bologna, sia una delle ricette giuste da portare anche a livello nazionale sicuramente. Campo Largo e la vittoria anche del Campo Largo, anche se non è stato facile diciamo fare convivere 5 Stelle e Italia Viva, che ha dovuto rinunciare al simbolo. È una vittoria delle forze politiche che si uniscono contro questa destra, che è la priorità assoluta in questo momento in cui il governo, Giorgia Meloni, le forze politiche di destra stanno davvero mostrando quello che sono e quello che vogliono fare al paese. Quindi un'autonomia differenziata, un premierato, disuguaglianze che si allargano, e le forze politiche proprio qui in Emilia Romagna e non solo, speriamo, quando si uniscono e capiscono che la vera posta in gioco è questa, si uniscono e possono vincere. Anche questo è un grande insegnamento ed esempio per il livello nazionale.